Buongiorno, buongiorno Nicoletta e anche la sua amica carissima. Però vabbè, io non sono un amante di lui, però vabbè. Chissà il dottor Aquilar. Tu perché non ti esponi? Perché fai sempre parlare me? Ecco. Ah no, da mia sorella, dice la vuoi improverare tua madre. Eccomi, eccomi. Sentito queste due pazze. Molto carine. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Quante belle fotomodelle incartate come caramelle. Quante belle fotomodelle lucidate come le piastrelle. Hey, tu parli oppure no? Mi fai capire? Eccoci qua, Nicoletta, l'hai appena detto. Non ci bastava Sanremo questa settimana. Settimana affollatissima, iniziata ieri anche Milano Moda Donna. La settimana che vede protagonisti più grandi marchi, le grife più prestigiose, quindi scusami se sono arrivata in ritardo, ma stamattina avevo una sfilata importante. Mi vedi che sono tutta truccatina? Sì, assolutamente magnifica. D'altra parte, se non prendono te che hai la coscia lunga, certo. Avrai da lavorare però, perché ho letto che ci sono oltre 60 sfilate, sì. 143 collezioni e poi c'è tutto. Sì, no? L'extra large è tutto il mio. Siamo donne, alla moda e al lusso non siamo indifferenti e come tutti poi però ci scontriamo con la realtà e come gran parte delle amiche che salutiamo e che seguono Cuore e Denari poi ci confrontiamo con l'esigenza di acquistare, di essere belle, di acquistare abiti belli ma anche di qualità senza svenare però il nostro portafoglio perché non si può spendere per un abito quello che serve a tutta la famiglia per due mesi. Vi do un dato. Dal 2008 quasi due italiani su tre in questi anni hanno ridotto la spesa per l'abbigliamento e nell'ultimo anno solamente oltre il 60% dei consumatori, senti questa Nicoletta perché è molto carina, ha fatto ricorso a riparazioni sartoriali per non dismettere capi di abbigliamento. Sono alcuni dei risultati di un'indagine di SVG per la CNA sulla rivoluzione nei consumi di abbigliamento, calzature e pelletterie avvenuta appunto da 5 anni a questa parte. C'è chi diminuisce la spesa e tra questi molti ricorrono più spesso di prima alle riparazioni, come dicevamo, contro un 39% che acquista meno abiti e il 28% che compra lo stesso numero di capi, ma di qualità inferiore. Con chi commentiamo questi dati? Andrea Cinosi, presidente di Asso Low Cost, buongiorno. Buongiorno. Asso Low Cost è l'associazione delle imprese low cost e di qualità, imprese che producono e commercializzano in modo, dicono loro, poi ci faremo spiegare che cosa significa, moderno ed efficiente, ma questi dati che cosa ci raccontano? Questi dati ci raccontano anzitutto di una crisi che è sotto gli occhi di tutti, per cui tutti quanti siamo chiamati a far quadrare il bilancio familiare che è sempre più difficile. Quindi cerchiamo strategie di ottimizzazione della spesa, il che investe anche la scelta degli abiti e le strategie d'acquisto. Ecco Cinosi, dal punto di vista del vostro osservatorio, ci si può vestire molto bene senza necessariamente frequentare solo via Monte Napoleone a Milano o via Condotti a Roma? Ma direi assolutamente sì, vestire low cost può addirittura diventare chic e ce lo dimostrano addirittura la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, piuttosto che la first lady Michelle Obama, che si sono spesso mostrate con collezioni di moda low cost. Hai sentito che paragoni che abbiamo scomodato questa mattina, Nicoletta? Come noi, d'altronde. Non so per quale motivo non abbia citato me te in questo suo commento, però andiamo subito ai nostri ascoltatori. Quanti denari avete addosso? Siete vestiti low cost stamattina o siete griffatissimi? 800 24 00 24, guardate cosa avete addosso oggi, calcolate quanto avete speso per comprarlo, chiamateci, raccontatecelo, oppure se non volete scrivetecelo in un tweet o al 349 238 6666. Ma raccontateci anche il vostro stile, come lo definireste? Ad esempio per gli uomini siete più classici, stile Barisoni, casual come Cruciani, oppure più estrosi come Oscar Giannino, oppure invece siete più giovani come Matteo Caccia, perfetto, no? Un capito. Uomo che piace alle mamme e alle figlie. È vero, come me li hai osservati tutti con attenzione. Come possiamo fare in modo che gli ascoltatori ci raccontino il loro stile? Possono chiamarci all'800 24 00 24, però non parliamo delle donne di Radio 24 perché siamo un po' in conflitto di interessi, no? Alle ascoltatrici allora facciamo una domanda diversa, chiediamo: in quale tessuto vi riconoscete o indossate di più? Siete più seta, jeans, cotone, il numero verde è sempre anche lo stesso. Lino, canapa, certo, potete allargarvi. Ecco qua. Io Lino. Voglio una donna, donna, donna, donna, donna con la gonna, gonna, gonna. Voglio una donna, donna, donna, donna, donna con la gonna, gonna, gonna. I tessuti ci proteggono, ci vestono, ci avvolgono, ma il loro abbraccio può diventare irritante. Dati recenti segnalano che sono in drammatico aumento le forme di dermatite da contatto dovute ai tessuti, in particolare all'abbigliamento che indossiamo a diretto contatto con la pelle. Slip, reggiseni ad esempio, infatti le zone più a rischio sono quelle in corrispondenza delle pieghe, ascelle, zona inguinale, solco sottomammario e quelle più soggette a contatto, o meglio a frizione, a sfregamento, una per tutti l'interno. Questo perché sia la sudorazione che il contatto ravvicinato con il tessuto favoriscono la penetrazione attraverso la cute degli allergeni contenuti nei tessuti. Oggi ne parliamo con la nostra dermamica che voi conoscete bene, la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e tra l'altro presidente di Skineco, che è l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. È un invito a nozze questo per lei, perché da anni lei raccomanda di fare attenzione non solo a quello che mettiamo in faccia, e così dico anche alle ascoltatrici che se avete bisogno anche di qualche consiglio della dottoressa Serri riguardo alle creme è qua a nostra disposizione, l'abbiamo catturata, ma soprattutto di fare attenzione a quello che indossiamo, perché il tessuto insomma in qualche modo entra nella nostra pelle. E certo, rimane per ore e ore e ore a contatto della nostra pelle, per cui si crea un rapporto tra il tessuto e il sistema biologico pelle. Prima era giusto, giustissimo, il sudore, la sudorazione, l'umidità rende la pelle più reattiva e quindi le zone dove c'è più sudore e dove c'è più frizione diventano anche le zone più facilmente irritabili, zona ascellare, zona inguinale, zona sottomammaria molto frequentemente, sì, un classico, nella cosa del reggiseno. Nel reggiseno. E perché? Perché si tratta di contatto molto frequentemente con tessuti sintetici, alle volte indumenti intimi estremamente graziosi, ma magari di una qualità che diciamo non piace alla pelle. Che quindi può dare fastidio, infatti si arrossa, magari colorati, per cui si arrossa, pizzica e può diventare in certi casi anche un terreno di crescita favorevole per dei lieviti che vivono normalissimamente sulla pelle di tutti, ma in certe situazioni, in queste situazioni, crescono troppo. Questi lieviti sono le candide, per certo, esempio. Attenzione quindi alla biancheria intima, non vogliamo, ecco, diventare, no, una noi trasmissione arte, essere... ma vogliamo capire anche che slip portate, vogliamo... possiamo dire così? Ma certo, questo è fondamentale. Io quando consiglio gli slip scateno delle grandi risate nelle mie pazienti, perché quando c'è un'irritazione, ma anche negli uomini e non solo nelle donne, perché per esempio le follicoliti dei glutei, quelle... chiamiamoli bubboni per rendere l'idea, che vengono sui glutei, quindi zone dove c'è spesso la pressione dallo stare seduti. Dove non batte il sole. Dove non batte il sole, si sta seduti oppure si fa sport, indumenti sintetici sono molto frequenti tra gli sportivi, sia uomini sia donne, e io prescrivo i mutandoni. Ecco qua, l'uomo allora deve lasciare libero il gioiello, insomma, ecco, perché per deve... prendere aria. No, infatti l'ideale è o non usare la biancheria intima, come usarlo una volta, gonnellone e via. Per le donne. Insomma, le blocco qua perché mi vedo che stanno andando in un terreno pericoloso. Ci sono delle possibilità, ecco, diamo delle speranze. Noi vi daremo dei consigli. Partendo dai tessuti, noi cerchiamo di capire che cosa irrita la nostra pelle, parliamo quindi di dermatiti, un gruppo di malattie della pelle molto ampio, con sintomi che possono sembrare molto simili ma con cause e decorsi tra loro differenti. Quindi, oltre a guardare come siete vestiti e quanti soldi avete addosso, vi invito anche a osservare la vostra pelle, chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, soprattutto se la vostra pelle sia rossa, ecco, o se siete un po' in verde e volete comprare un abito bello, elegante, che vi piaccia senza spendere troppi soldi. Allora, sentiamo subito le scelte di abbigliamento che fa Francesco della provincia di Latina. Io sono molto colpita dal fatto che, pur avendo invitato le ascoltatrici, forse un po' per una sorta di pregiudizio che abbiamo nei confronti degli uomini, che magari riteniamo non si vestano in maniera adeguata, invece sono soprattutto gli uomini che ci stanno scrivendo. Sentiamo immediatamente Francesco all'800 24 00 24. Buongiorno a tutti, grazie buongiorno. Per la conversazione. Eccoci. Volevo segnalare un particolare. Io oggi all'incirca indosso, così a occhio e croce, circa 1500 euro di merce. La particolarità è che è tutta roba che la più recente credo abbia non meno di 5 anni. In questi, tutti i capi che all'epoca erano tutti capi buoni, che grazie a Dio lo erano allora, lo sono continuati a essere dopo. E fra questi capi ho delle scarpe, ad esempio, comprate a suo tempo in un outlet che ho usato pochissimo e che ho giudizialmente ritirato fuori dalla cantina negli ultimi tempi. E gli altri capi o capi che ho comprato, più che altro roba che mi ha regalato mia moglie, che prendeva lei nei momenti in cui si poteva forse fare qualche spesuccia in più, e che da allora me li sono tenuti proprio con attenzione. Le uniche cose nuove che ho sono gli slip e i calzini, e quelli insomma si cambiano Lei porta gli slip, non i boxer. In questo momento i boxer oggi. Ma infatti piacciono di più i boxer anche ai dermatologi? No, i dermatologi vanno bene anche gli slip, ma oggi gli slip maschili li fanno spesso con dentro del sintetico, e quelli non vanno bene, stanno troppo aderenti e possono dar fastidio. Eccolo qua. Allora, il cotone 100%. Per Francesco, se non ho capito male, vale la filosofia del chi più spende meno spende. Abbiamo visto che la qualità dei tessuti fa la differenza per la nostra pelle, ma per la moda anche il taglio e il colore di un abito sono importanti, e non ce lo nascondiamo, anche la griff, dice la sua. Andrea Cinosi, nel low cost legato all'abbigliamento, la filosofia del chi più spende meno spende viene un po' rovesciata, no? Vuol dire che il low cost non rinuncia alla qualità, ad esempio, dei tessuti, ma forse a qualcuno a pelle non piace comprare low cost, no? Come risponde a queste persone? Che cosa si intende esattamente la filosofia low cost abbinata all'abbigliamento? Sì, assolutamente. Nel tempo della moda ci sono persone che non comprano low cost, però devo dire che dalle nostre indagini sono ormai poche, perché circa il 90% degli italiani, che sia nel campo dell'abbigliamento, degli accessori d'abbigliamento o comunque di prodotti per la cura della persona, scelgono il low cost. Parliamo però ora della qualità. Rispetto alla qualità, lei solleva un tema che è molto interessante, però bisogna vedere cosa intendiamo per qualità, perché vede, la qualità tecnica, cioè la qualità dei filati, non è per noi consumatori né l'unica né la cosa più importante che valutiamo al momento dell'acquisto. La prima cosa che infatti andiamo a guardare è il contenuto di design e la capacità del capo d'abbigliamento che noi acquistiamo di vestirci come desideriamo e di assecondare un po' quel modo di vederci assolutamente personale, che però molto a Cinosi, mi ascolti, abbiamo, aspetti lì, abbiamo una qualità pessima del collegamento, la ripristiniamo, se ha un attimo di pazienza, così almeno cerchiamo di capire bene quello che dice, tutti i messaggi che ci sta trasmettendo. La ripeschiamo. E meno male che invece abbiamo qua la dottoressa Serri e abbiamo Fernanda dalla provincia di Venezia. Intanto anche la dottoressa Serri ci dirà che cosa è la qualità di un tessuto per la nostra pelle, che cosa dobbiamo leggere, se ci basta l'etichetta, il tatto o anche l'olfatto potrebbe aiutarci a capire se quello che stiamo prendendo è amico della nostra pelle. Ma andiamo da Fernanda. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta. Buongiorno Fernanda, sta bene? La ringrazio che mi ha fatto parlare. No, qui ci sarebbe un discorso lungo da fare sull'abbigliamento, sia per quanto riguarda la qualità, sia per quanto riguarda il costo. Io sono una di quelle persone alla vecchia maniera in cui non ho mai acquistato molto abbigliamento. Io acquistavo sempre e acquisto tuttora un capo che mi duri, in un negozio dove io posso trovare la persona giusta che mi consiglia. Sì. Non sopporto più tutto quel quel lungo, quei supermercati, quei outlet dove c'è un'infinità di cose, dove c'è tutto a 5 euro, 10 euro, ed è una schifezza che si riempiono gli armadi e poi non c'è più il bello. Non so, un capo che tu vedi indossare da una persona che dici guarda che bel capo, non vedo più questa non Coco Chanel e i suoi taglierini, quindi poco più... Fernanda, poco di qualità e buono, e quindi no, come i famosi capospalla. 12-15 anni, anche se sono fuori moda, ma io li porto ugualmente e mi sento bene. Guardi, Fernanda, della sua stessa idea è un nostro ascoltatore Marco di 44 anni che dice che per ora ne dimostro meno, il fisico mi, fino a quando mi regge continuo a vestirmi da eterno ragazzo, però mi metto proprio la roba di 15-20 anni fa. Se uno sta fermo, la moda va talmente veloce che prima o poi ti raggiunge. Mi dicono carina quella sciarpa, dove l'hai comprata? In un negozio che ormai non c'è più. Dottoressa Serri, a proposito di vintage, qualità. Il vintage sta ritornando alla grande. Il vintage è ottimo, tra l'altro. Il vintage, ci sono dei negozianti vintage magnifici. Io a chi è molto reattivo consiglio sempre indumenti vecchi, molto usati, molto lavati, sono i migliori. A proposito di qualità, io vorrei sottolineare sul low cost c'è un'altra questione che mi sta molto a cuore, che molto spesso noi guardiamo il low cost, che però è ad altissimo costo per chi ci lavora, e questo secondo me è una cosa da prendere in considerazione. Cioè, se penso che certi prodotti che magari noi siamo tutti contenti di trovare a un basso costo, al di là della qualità che può essere dubbia e lì bisogna essere molto attenti, ma sapere che dietro c'è la schiavitù di esseri umani, per me è terribile, ecco, per me è terribile. Non credo che sia questa, come dire, la filosofia di produzione delle aziende associate a low cost, però è un problema Cinosi. No, sono aziende che arrivano anche per vie molto traverse, attraverso internet, attraverso tutti questi grandi scoppiazzatori, per esempio. Ah sì, certo. Che... Noi l'abbiamo ripescato il nostro Andrea Cinosi. Andrea. Benissimo. Sì, vabbè. Sì, è uguale, no? Ormai è un amico di cuore denari. Ormai faccio una cosa di anch'io un po' low cost. Eccoci qua. Ha sentito, no, il commento che faceva la dottoressa Serri, che è del tutto pertinente, peraltro. Ma ci mancherebbe. Allora, contro forme di produzione che sfruttano i lavoratori ci dobbiamo schierare tutti, ma io credo che ci dobbiamo schierare indipendentemente dal posizionamento di prezzo dell'impresa, perché poi ci siamo accorti, per fare un esempio molto concreto in Italia, che nel distretto di Prato poi sono state, come dire, coinvolte marche dell'alta gamma in questo problema. Però io concordo che tutti ci dobbiamo schierare contro lo sfruttamento del lavoro. Noi peraltro, nel momento in cui abbiamo costituito l'associazione, abbiamo comunque individuato una serie di parametri, tra cui il parametro etico, e riguarda proprio la modalità del trattamento dei lavoratori, che però è una cosa diversa, diciamo, dal valore del salario. Mi spiego meglio: se un'azienda produce in Oriente piuttosto che in altri mercati, quel salario deve seguire le regole di quel mercato di tutela del lavoratore, non deve essere inferiore. È chiaro che non potrà mai essere il salario di un lavoratore italiano, ecco, però l'azienda si deve uniformare alle leggi. La delocalizzazione è un conto, lo sfruttamento poi, esatto, la deriva dello sfruttamento è tutt'altro, certo. Completamente diverse. Peraltro un low cost non è fatto solo dal basso prezzo, ma è fatto dalla capacità di ridurre i costi di produzione in aree di spesa che non riguardino solo la qualità tecnica, ma in aree che riguardino ad esempio la logistica, l'organizzazione della produzione, piuttosto che l'ottimizzazione dei canali distributivi, così che il minor prezzo non sia da ascrivere esclusivamente alla minor qualità della materia prima. Benissimo. 800 24 00 24, se volete continuare a condividere con noi la vostra spesa per abbigliamento, fate un conto quanto indossate oggi, poi lo raccontiamo anche noi. Certo, Nicoletta, assolutamente. Stavo io facendo adesso mentalmente un conteggio di quello che ho addosso. Diteci anche il vostro stile di abbigliamento e dove anche vi cade l'occhio, qual è il dettaglio su cui vi concentrate, ad esempio quando incontrate una persona, potrebbe magari magari essere la giacca, invece guardate di più le scarpe, guardate se la camicia è perfettamente stirata. Ci sono dei dettagli che insomma saltano all'occhio. 800 24 00 24, come ha fatto Simone, che ci chiama dalla provincia di Cosenza. Buongiorno. Buongiorno Simone, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, salve. Io vi stavo ascoltando ed ero molto insomma incuriosito della conversazione. Io, ragazze, porto 60 euro insomma di indumenti stamattina. Credo che insomma sia abbastanza low cost. Io direi di sì. Però è tutto vestito, però non vale telefonare in mutande, eh? No, sono perfettamente vestito. Okay. Un jeans, delle scarpe e una felpa. Mi sto recando insomma al lavoro, quindi devo anche essere presentabile insomma al pubblico. Certo. No, tra l'altro stavo guardando, lo chiedo a un ascoltatore, un sms che è arrivato stamattina di un ascoltatore che ci scrive che è in tuta da lavoro, tutto unto, e peraltro gli dicono che è anche molto sexy. L'ho letto anch'io, Luis. Il nostro meccanico sexy probabilmente, e quindi lasciamo concludere. Vabbè, quindi lei insomma contiene, argina la spesa per abbigliarsi, no? Se non ho capito male. Sì. Diciamo che il mio occhio solitamente cade ai tessuti buoni, nei mercatini oppure comunque sia nei negozietti outlet simpatici della mia città, dove comunque sì, i prezzi sono contenuti, però il tessuto è abbastanza buono per comunque sia fare una bella figura, ecco. Grazie Simone, buon lavoro. A presto. Grazie a voi, buona buon giornata. Lavoro, arrivederci. Grazie. E tu adesso devi andare a lavorare perché ci sono i mercati, mentre io e la dottoressa Serri ci riposiamo in attesa delle vostre telefonate. 800 24 0024, guardatevi, misuratevi, noi siamo qua. Cuore e denari. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. Incontri ravvicinati, cheek to cheek, con i nostri tessuti, con quello che indossiamo, possono irritare la nostra pelle. Ne stiamo parlando con la dottoressa Riccarda Serri per avere da lei delle indicazioni. Se la pelle si arrossa, allargheremo naturalmente il tema anche non solo alle dermatiti da contatto, ma a tutta la grande famiglia delle dermatiti. Ci state già scrivendo in tanti, per chi soffre ad esempio di dermatite atopica, anche il tessuto è importante. Ma dottoressa Serri, ci dia tre indicazioni chiare per che cosa fare, come riconoscere se il tessuto ci dà fastidio, come evitare che questo accada. Come evitare è cercare di tenere a contatto della propria pelle. Se si hanno per esempio dei pruriti, delle eruzioni, dei rossori, il termine dermatite è un termine molto generico che significa infiammazione della pelle, per cui comprende di tutto e di più e non è specifico. Se la pelle dà fastidio, pizzica, prude, brucicchia, ci sono delle manifestazioni anche di secchezza, tenere a contatto della propria pelle materiali naturali, morbidi, cotone, lino, seta, indumenti morbidi, badare anche alla qualità del tessuto che ha contatto della propria pelle. Ci si può vestire come si vuole, basta che sotto, a contatto della pelle, si abbia per esempio una vecchia maglietta di seta, una maglietta di cotone, e anche col cotone, attenzione, perché i coloranti sono molto importanti. Ci sono per esempio, oggi purtroppo i colori naturali non si usano quasi più, sono molto costosi e sono quasi completamente in disuso. Si trovano a qualche mercatino, a Milano c'è il mercato Fa la Cosa Giusta, dove ci sono degli stand di indumenti preparati con tessuti naturali. Sono rari e costosi. Con coloranti naturali, per cui bisogna guardare molto anche i coloranti. E in caso di irritazioni, attenzione ai colori scuri e soprattutto al colore blu. Molto spesso io ho visto irritazioni, addirittura dermatiti da contatto, legate a calzini blu, soprattutto se la qualità non è ottimale, perché c'è colore anche nel campo dei coloranti di sintesi. Esattamente come anche nel campo delle profumazioni c'è profumo e c'è più alta qualità e più bassa qualità. Quindi tessuti naturali, tessuti colorati di qualità e come distinguerlo. Secondo me bisogna anche affidarsi alla serietà di chi ci vende il prodotto. Certo. E tessuti lavati con detersivi, possibilmente a marchio Ecolabel, quindi vuol dire più biodegradabili, ma vuol dire anche che contengono meno molecole tossiche e soprattutto attenzione al risciacquo. Oggi le lavatrici, per risparmiare energia, consumano meno acqua. Questo vuol dire che sciacquano meno rispetto a un tempo, però siamo avvezzi a usare magari quantità di detersivo eccessiva, per cui o si fa un doppio risciacquo o la donna o l'uomo, perché anche tanti uomini fanno, certo, le lavatrici, cioè, deve sforzarsi un po' di più, fare un prelavaggio con del sapone sulle macchie e poi usare meno detersivo, soprattutto usare anche meno additivi di quelle sostanze che si devono appiccicare al tessuto per dare morbidezza, per dare profumo. Sostanze che possono essere irritanti, sostanze che contengono anche i famosi ftalati, che sono quelli che poi danno quella puzza di plastica un po' acida che hanno le macchine nuove, che hanno, per esempio, avete presente quelle tende delle docce, oppure i materassini, le ciambelle, certo, di plastica, quando le tirate quindi fuori dalla plastica. Anche il naso ci aiuta a riconoscere il tessuto di qualità, ma esatto, noi vogliamo oggi aiutarvi anche a riconoscere le irritazioni della pelle, quindi facciamoci guidare da alcune parole chiave. Dove, come e quando? 800 24 00 24. Intanto i nostri ascoltatori, esatto, ci stanno scrivendo. Faccio solo una piccola battuta, perché tra le parole chiave che ha detto la dottoressa Serri c'è anche calzini, e alle donne subito che abbiamo coinvolto con la domanda su che cosa vi cade l'occhio quando magari fate un po' di attenzione all'abbigliamento dell'uomo, è chiaro che il calzino corto ormai, Nicoletta. No, soprattutto bianco. Bianco, perché Cinosi, lei non mi deluderà da questo punto di vista, vero? No, assolutamente. E i fantasmini usati dagli uomini? No, sono frequentissimi. Questo non sì, ci ho mai fatto caso. Molti ragazzi ora usano i fantasmini. Che Dio non ci aiuti. Non è ancora la stagione dei fantasmini. No. Scatta verso marzo, sì, quando vogliono far vedere che insomma è un po' primavera, sì, ma il piede suda e loro non può. Allora cosa fanno? Però non è, diciamo, è utile, perché io li consiglio, soprattutto con scarpe di gomma. Ma non si arrossano, guarda. E come tante cose che fanno bene alla pelle. Ci sono anche, certo, la dottoressa Serri ci raccontava che ci sono anche le calze con pelo incorporato. Sì, le calze, scusate, le vendono come antistupro. Calze con pelo incorporato. E qua veramente non si finisce mai di imparare. Andiamo ai nostri ascoltatori. Allora, vediamo un po' la loro spesa per abbigliamento low cost. Come si declina? Leonardo da Bologna all'800 24 0024. Leonardo, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Volevo fare una foto alla dottoressa Ferri. Se c'è una macchia di unto, basta metterci una goccia di detersivo da piatti sulla macchia e viene un attimo. Grazie. Leonardo è da sposare. Mamma mia. Però è già sposato. Sposato, come se le sono già presi. Ieri sera ne parlavo con amiche che tutti i migliori sono già sposati. Leonardo. Però voleva dirci anche qualcos'altro. Leonardo. Sono sempre con mia moglie per la quantità di detersivo. Bravo. Per quanto riguarda l'abbigliamento, io sfrutto molto gli spazi aziendali che legano, oltre all'alta qualità, prezzi che l'Ipercops li sogna spesso. Però perché purtroppo non sono ovunque, no Leonardo? Lei magari sta in una zona favorevole. Io siamo dalla provincia di Bologna, certo, dove Carpice, Champion, Giugio. Insomma, siete una zona fortunata, Leonardo. Tra l'altro, spazio di Castedonia per l'intimo è tutta roba di marca che ha dei prezzi veramente irrisori. Già, Leonardo, grazie per il suo suggerimento. Quindi vediamo le nostre taglie, Leonardo, se vuole andare a comprare un po' per noi. Visto che è così carino, esatto, non ci serve il detersivo da mettere sulle macchie, ma magari qualche capo in più. Andrea Cinosi, tra l'altro, invece gli outlet, le famose cittadelle della moda, che fanno tanto arrabbiare naturalmente il commercio al dettaglio, che è in forte crisi anche per, invece, al contrario, il successo che gli outlet stanno avendo. È una modalità di commercio low cost? Sì, assolutamente sì, perché gli outlet consentono, aggregando tanti marchi, tante firme, tante case, di realizzare economie di scala nei costi di gestione, di attrarre un grosso flusso di pubblico, e quindi questo consente di ridurre i prezzi, perché anche a minor margine le case presenti possono conseguire i propri obiettivi. Quindi sono sicuramente dei modelli low cost, come peraltro sono i temporary store, oltre che naturalmente le grandi catene che tutti conosciamo. Certo, poi però sa bene che questo mondo è ben immerso nella contestazione relativa al fatto che le collezioni che vengono vendute sono quelle vecchie o molto vecchie, quindi è ovvio che si possono praticare dei prezzi molto convenienti. Sì, assolutamente, assolutamente. È anche vero che viviamo oggi in un mondo in cui sembra che ciò che non è uscito proprio oggi non sia più adatto a noi, cioè si è perso quel legame tra abbigliamento e personalità, per cui laddove la moda cambi sembra che ci si debba adeguare, invece che, come dire, vestire la moda su di noi. Ecco, per cui probabilmente il successo deriva anche da questo. Mm-hmm. E allora, chi andiamo a sentire adesso? Vorrei sentire Massimiliano, che ci chiama da Milano, ma vorrei ringraziare i tanti ascoltatori e le ascoltatrici che ci danno consigli su come lavare i capi. Ad esempio, Laura ci scrive: meno detersivo e mettere aceto bianco in lavatrice. Sì. Invece Bruna, che ci scrive da Cuneo, dice che lei lava tutto quello che compra prima di indossarlo. Certo. È una buona abitudine e non usa mai l'ammorbidente, ecco. È giusto? Brava. Allora, io non lo lavo. È una malissimo. No, io compro e lavo. Nicoletta, malissimo. Io compro e lavo. Allora, una norma l'ho detto così, se no sono troppo perfetta, se no qualche difettuccio. Vabbè, anche tu imparerai. Però le mutande le lavo sempre, certo. Prima no, di bisogna indossarle. Sempre lavare gli indumenti nuovi, perché anche gli indumenti vengono trattati con conservanti, con antimuffa, cioè anche gli indumenti contengono delle sostanze chimiche che devono preservarli stando via. Mm. Per cui tutte queste sostanze, al di là, tutti pensano ai batteri, germi, gli altri li hanno usati, no, sono anche proprio molecole chimiche che sono nella trama del tessuto, nell'indumento, per cui che tramano contro di noi. Massimiliano da Milano, buongiorno. Dopo dobbiamo risolvere l'enigma dell'ammorbidente, perché qua mi interessa certo. molto capire perché non dobbiamo usarlo. Massimiliano, buongiorno. Sì. Buongiorno. Lei usa l'ammorbidente? Certo. Sì, usiamo l'ammorbidente, assolutamente. Poi abbiamo due bambine, quindi appena è un po' ruvido abbiamo le proteste, quindi usiamo l'ammorbidente. Hai capito come sa. Adesso poi la dottoressa Seri le dice invece che cosa fare. Va bene. Comunque, Massimiliano, lei? Ma io volevo dire un'altra cosa, però in realtà mi avete fatto ridere, perché ho guardato, mi ho fatto riflessione su quello che ho addosso oggi, che sono in giro per lavoro da clienti, e non ho niente che non sia comprato con almeno il 50% di sconto. Ha fatto bene, guardi, brava. Qua è l'uomo di denari, ci mancherebbe. Ecco, quindi questa. Poi invece, visto che c'è la dottoressa in linea, volevo intervenire perché io ho avuto, diciamo, nel 96 uno shock, nel senso che ho scoperto un'allergia al cuoio delle scarpe, cioè alla pelle del cuoio delle scarpe, che mi hanno, diciamo, prima mi hanno detto che avevo dei funghi e vabbè, hanno sbagliato, e poi invece appunto è venuta fuori questa allergia agli elementi della concia, credo nickel cadmio, una cosa di questo genere. Per cui io ancora oggi devo mettere, praticamente, poi per fortuna in quegli anni lì era una disperazione, adesso ci sono tutte delle scarpe, vabbè, senza fare pubblicità, tipo, non so, Frau, Geox, che hanno il cuoio e dentro, diciamo, sono imbottite di tessuto e quindi riesco a metterle. Certo. E volevo capire se c'era, non lo so, se c'era stata qualche evoluzione, qualche marca che usava pelle conciata ecologicamente, qualche cosa di questo genere qui che magari mi risolvesse un pochino il problema, che comunque ancora a distanza di un po' di anni ce l'ho in pieno, insomma. Cuore e denari. Che cosa penserebbe se ora io le dicessi che lei è una delle più belle creature che io abbia mai visto? Penserei: che pazzo sciocco gli è. E che cosa penserebbe se io la baciassi? Penserei: che pazzo, impetuoso, magnifico, sciocco egli è. No, no. Io devo. Dopo mangiato. La tua pelle è di una tale bellezza. Ah, sì, lo so, ne ho su tutto il corpo. però la pelle del nostro Massimiliano da Milano ha contatto, sì, la pelle dei piedi ha contatto con la pelle delle scarpe, sì, si irrita. Adesso infatti lui è proprio il materiale usato per la concia, sono queste resine che contengono anche diverse sostanze, colle eccetera, diverse sostanze, e la dermatite da contatto da scarpe è molto frequente, per cui certamente nessuno, non è ancora molto diffusa la moda ecologica. Purtroppo lei mi sta dicendo una cosa che mi sta molto a cuore. Io ho fondato un'associazione di dermatologia ecologica, Skineco, abbiamo cercato di convincere anche aziende, anche di moda, a aiutarci a diffondere, ma c'è resistenza perché è costosa. Ci sono certamente, e conosco io stessa, ho qui, ora faccio vedere, questa è concia ecologica, bellissima, tintura naturale, e ci sono degli artigiani, e voglio veramente lanciare una lancia, non so come dire, in favore degli artigiani italiani. Si faccia aiutare da Andrea Cinosi di Assolo Costa. Cinosi, che ne pensa? Si può fare? Qui è proprio tutto l'artigianato italiano che fa delle cose di qualità altissima, che in questo momento hanno delle immense difficoltà per farsi conoscere, per vendere, per tutta una serie di motivi, e che potrebbero invece aiutare anche noi dermatologi a essere più bravi medici, perché dare i consigli giusti è importante. Possiamo chiedere ad Andrea Cinosi se vuole fare questa joint venture adesso, a parte magari è difficile, non praticabile, però è un messaggio molto importante quello che sta passando la dottoressa Serri. Ci sono dei laboratori che dice... Assolutamente sì, io sono un fautore dell'idea che se l'artigianato italiano, se il Made in Italy sposasse la filosofia low cost, intesa come ottimizzazione di tutte le attività che non riguardano strettamente la qualità, allora noi avremmo un potenziale di commercializzazione del mondo veramente straordinario, per cui benvenga la joint venture, è una cosa che sostengo realmente da anni e mi auguro che succeda un giorno. Allora ricoperiamo un attimo il tema ammorbidente. Comunque torniamo solo un secondo al discorso scarpe, ci sono dei calzettini di seta dermatologici che si possono mettere a protezione del piede, ecco, esistono. Sono quelli che hanno le dita oppure no? No, senza dita, senza dita. Perché ci sono anche le calze con le dita, sì, sono un po' che si utilizzano soprattutto nei casi in cui ci siano presenti quelle piccole pustoline tra le dita del piede. Quindi lei suggerisce comunque di mettere a contatto della pelle, che siano i piedi, ma ci parlava anche di una sorta di canottiera della salute rivisitata, a contatto della pelle, una sorta di protezione con un tessuto molto naturale, anallergico. E possibilmente di colori naturali, che sia l'orrendo calzino bianco color panna, che però non dica così, perché guardi che noi abbiamo detto che non ci piace il fantasmino, ma c'è stata una rivolta dei nostri ascoltatori maschi, loro piace, e però carini, contente le loro mogli, e tornando invece all'ammorbidente. Bravo, va bene, l'ammorbidente è a base di molecole che sono tossiche per l'ambiente e tossiche per la pelle. Quindi non va bene. Allora, i profumi usati nell'ammorbidente, uniti a molecole che tengono intrappolato la molecola di profumo sul tessuto, non fa bene alla pelle. Ci saranno però anche degli ammorbidenti naturali, appunto, un po' più avanti. Ci sono ammorbidenti ecocompatibili. Il mio mentore nella detersivistica eccetera, cioè il mio maestro, perché io non sono una chimica, io vedo gli effetti delle sostanze chimiche sulla pelle, è Fabrizio Zago. Il suo laboratorio è fatto da 30 lavatrici, per dire, per cui lui le prova tutte e prova anche gli ammorbidenti, e poi si valutano quelli meno sensibilizzanti. L'esterquat, per esempio, è una delle molecole utilizzate negli ammorbidenti ecologici che non dà problemi. Come si chiama? Esterquat. È una molecola che ha un nome assurdo, ma comunque basta andare a controllare il biodizionario di Zago e vengono tutte fuori. Avete anche voi il vostro spread, vedi, in quanto a parole difficili. E comunque il marchio Ecolabel ci mette, si trova in tutte le catene di grande distribuzione, si trova Copes, tutte le catene di grande distribuzione, è un marchio europeo che tutela. salva la pelle. L'acido citrico al posto dell'ammorbidente? Assolutamente favorevolissima, meravigliosa. Brava Daniela. Brava Daniela. Mentre... è un grande suggerimento di Zago proprio. Mentre Simonetta, magari si conoscono Daniela e Zago, con tutte quelle lavatrici, magari Daniela gli porta anche a lavare qualcosa. Zago Simonetta fantastico. Invece dice che l'ammorbidente è dannoso anche per l'olfatto, inibisce la capacità di sentire gli odori e peggiora le allergie. Insomma, l'ammorbidente certo, l'abbiamo sistemato. È il profumo anche che dà fastidio, sono questi profumi sintetici, quindi allora, è importante valutare. Abbiamo sì e no fatto il gioco del come, dove, quando con la dottoressa Serri. Sentiamo dal punto di vista, diciamo, dell'abbigliamento low cost come si possono trasferire anche queste regole. Prima però una scheda, un occhio al chi, perché a volte dietro al low cost come dire, guarda anche al fatto che ci sono degli stilisti famosi. Sentite. Salva Danaio. Negli ultimi anni, secondo molti, si è assistito a una vera e propria democratizzazione del lusso. Un esempio è il cosiddetto co-branding, un fenomeno inarrestabile e di enorme successo. L'idea è semplice. Una catena di abbigliamento low cost, o come si suol dire, di fast fashion, produce e poi distribuisce nei suoi punti vendita una collezione disegnata da uno stilista di fama. A dare avvio alla tradizione è stata l'azienda svedese H&M nel 2004, con una collezione limitata a firma di Karl Lagerfeld. Per i marchi di prestigio è un'ottima occasione per aumentare l'esposizione mediatica ed espandere e rinnovare la propria clientela di riferimento. Il vero obiettivo, infatti, è quello di avvicinare il target delle grandi catene, giovane, dinamico, con un reddito medio-basso, all'universo simbolico del lusso. Andrea Cinosi, facciamo un quiz, deve essere telegrafico con le mie domande. Partiamo dal come facciamo a capire che un negozio d'abbigliamento risponde a tutti i requisiti del low cost, cioè unisce la qualità e il prezzo secondo la filosofia della vostra associazione? Anzitutto debbono essere grandi catene, perché se non siamo in presenza di grandi volumi diventa difficile realizzare quelle economie che permettono il minor prezzo. Dove? Spesso questi grandi centri sono in periferia, le cosiddette città della moda, ne abbiamo parlato prima, questo vuol dire che non ci si passa per caso, ci si organizza con un budget e con un obiettivo di acquisto. Che consigli ci dà? Sì, assolutamente, il consiglio è quello di organizzarsi con obiettivi di acquisto, ma poi anche la capacità di individuare articoli a fine serie, perché come dice il termine fast fashion, le collezioni hanno una rapida rotazione e quindi ogni 20 giorni circa cambiano, acquistando gli ultimi capi spendiamo meno. Il quando per finire, ci sono stagioni più o meno convenienti dell'anno, anche il modello low cost ha la sua stagione dei saldi? Sì, direi assolutamente di sì, e se dovessi consigliare il massimo è individuare catene low cost che hanno il loro punto distributivo in un outlet, acquistando nel momento dei saldi. Benissimo, grazie ad Andrea Cinosi, in bocca al lupo per la vostra attività, a presto. Grazie a voi, a presto. E noi tra poco andiamo a sentire il nostro GR e continueremo naturalmente a parlare di moda che indossiamo sulla nostra pelle e di che cosa dice la nostra pelle. Abbiamo un po' portato la nostra attenzione sui tessuti che a volte possono irritare, ma sono arrivate anche i tessuti intelligenti. Ne parleremo subito dopo il GR, forse qualcuno di voi li ha già acquistati, li sta indossando, se l'avete fatto, se lo state facendo, chiamateci 800 24 00 24. Ultime dall'economia, i costi del conto corrente aumentano ancora. Ma no, ancora! Non buttare l'estratto conto, portalo in banca Mediolanum. Con Freedom One puoi avere un conto a canone zero e in più un premio da scegliere. Scopri come su bancamediolanum.it. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Messaggio pubblicitario. Con conto Mediolanum Freedom One hai canone zero se accrediti lo stipendio o la pensione. Offerta valida fino al 14/3/2014. Condizioni nei fogli informativi e regolamento dell'operazione a premi disponibili su bancamediolanum.it. Ma che ci faccio al raduno degli alpini? Ma chiede qualcuno di leggere l'offerta Citroën, magari la fa meglio di te. Scusi, legge qui? Certo, volentieri. A febbraio, nuova gamma Citroën C4 Picasso da 19.900 euro. Scopri come averla con la nuova formula free drive con manutenzione programmata inclusa. E dopo due anni sei libero di sostituirla. TAN 3,99%, TAG 6,71%. Info su citroen.it. Anche domenica 23. Bravissimo, ciò! Ah, che meraviglia! Già, e da domani ti tocca tornare al duro lavoro. Vero? E se chiedessi una giornata in più di ferie? Aspetta un attimo, ecco qui, ADP Mobile Solutions. Fatto! Scusa, fatto cosa? Ho appena chiesto una giornata in più al mio capo tramite l'applicazione mobile di ADP. Ok, ma ora che ti risponde? Ah, dicevi? Visto? Domani ancora insieme, amico mio. Con ADP coinvolgi e connetti tutta la tua organizzazione. adp-italia.com. Il nuovo quotidiano del fisco. L'unico strumento professionale per i commercialisti con tutta l'informazione fiscale del Sole 24 Ore. A febbraio provalo soli 3 euro per un mese su www.soleventiquattroore.com/promo. Quanto ci vuole per fare 100 chilometri? Meno di 3 euro. Nuova Volkswagen EcoUp a metano, con consumi ed emissioni da record, le più basse della categoria. Scopri la gamma Up 2014 ancora da 8.900 euro, con clima, radio ed electric pack di serie. In più finanziamento anticipo zero, TAN 0, TAEG 268 e un anno di polizza furto e incendio inclusa. Anche sabato e domenica. Offerta valida fino al 28 febbraio. Info su Volkswagen.it. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Mediterraneo, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it, prenota il tuo stand a Forum Agenti Mediterraneo. Incontrerai più di 7.000 agenti di commercio. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 14 e 15 marzo, Fiera di Napoli. La realtà ha tante versioni. C'è una versione coraggiosa, una versione razionale, una versione ironica, ma soprattutto c'è la versione di Oscar. È la realtà. La realtà la si può guardare con tanti occhi, la si può guardare con uno sguardo coraggioso, con invece un approccio totalmente scorato. La si può guardare in una maniera razionale, con una versione invece ironica, con una satirica sardonica. Ma insomma, ci sono tante versioni, ma c'è anche la mia. La versione di Oscar, dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Cuore e denari. Siamo tornati oggi, Cuore e denari è un po' modaiola, diciamo fashion, la verità, fashion. E stiamo cercando di scoprire insieme ai nostri ascoltatori un po' le cose che ci piacciono, quelle su cui cade l'occhio, quelle che acquistiamo, come le laviamo. Le fibre nelle quali ci ritroviamo di più, nella nostra rapporto appunto con la pelle. Devo dire che i tessuti li abbiamo messi un po' in croce, ma in realtà ci sono anche dei tessuti intelligenti e nuova frontiera, si chiamano cosmetotessili. Ne parliamo oggi con Chiara Beghelli, giornalista Moda 24 del Sole 24 Ore. Ciao Chiara. Ciao Chiara, buongiorno. Ciao, ciao Nicoletta, ciao Deborah. Chiara, buongiorno. Un po' tessuti, un po' cosmetici, possiamo definire così i prodotti in commercio che promettono di migliorare l'aspetto della pelle, ridurre la cellulite? Che dici? Sì, infatti, assolutamente è la dizione corretta. Tra l'altro è un settore in cui le aziende italiane sono molto all'avanguardia. E guarda, vi faccio qualche esempio. Per esempio Piermantù, che a dispetto del nome è un'azienda di Segrate, in provincia di Milano, uno dei loro best seller sono questi Collant cosmetici da 70 denari che hanno una speciale microfibra che converte l'energia del corpo in raggi infrarossi capaci di combattere gli inestetismi. Per esempio. Bene, sono già andata a prenderli, eccomi, sono già partita. Allora, quelli sono senza questo. Peli, hanno gli infrarossi, ma i peli non li hanno messi. Speriamo. No, quelli ancora purtroppo. Ma ci sono, ha detto la dottoressa Serri, che fa Nicolan con pelo incorporato. Ma noi puntiamo più queste su questi che misurano, che migliorano l'aspetto della pelle. E poi quale altro cosmetico, tessuto intelligente? Una cosa che ha avuto, un altro prodotto che ha avuto molto successo sono questi jeans Yves di Le Roc, che è questa azienda di Ferrara, li ha lanciati nel 2011 come primi jeans anticellulite, che funzionano in un modo molto interessante in realtà, perché hanno anche loro delle microcapsule che contengono caffeina, vitamina E e un estratto particolare di frutti dell'ippocastano. Sì. Vanno indossati per 28 giorni, lavati ogni 6 secondo le istruzioni dell'azienda, e secondo questa guida garantiscono sono un dimagrimento, punto vita e giro cosce. Chiaramente dopo un po' i principi attivi vengono lavati via anche loro. Però l'azienda ha creato anche un apposito kit ricarica in dotazione con cui tu puoi ricaricare proprio i tuoi jeans. Prima li mordi e li mangi e poi li indossi. Ma pensa tu, ma quante ne sanno queste aziende? Certo che io li lavo. Quanto costano, Chiara, tra l'altro? C'è anche un'idea di quanto investimento dobbiamo fare per modellarci il sedere? Sono prodotti che non hanno un costo eccessivo. Per esempio, vi faccio un altro esempio. Questo spray Slim Cell Tex di Cosmetic, che è una delle aziende cosmetiche italiane più antiche, tra l'altro, perché è stata fondata nel 1932 a Milano. E è uno spray che costa sui 30 euro, più o meno, 35 euro. E è un ti permette di spruzzare sui tessuti, quindi sui jeans, ma anche sulle lenzuola, sulla biancheria, su una camicia, quindi veramente in tutta la casa quasi, un principio, scusate, particolare, che anche questo è un complesso dimagrante e anticellulite, e anche questo quindi che si ancora proprio ai tessuti e li rilascia, il suo effetto. La dottoressa è quasi inorridita a dire se mi chiede cosa ne penso, io chiederei una domanda di riserva, perché mi riservo di dire che tanto mi trovo interessanti le calze che al limite convertono l'energia del corpo in infrarossi, quindi riscaldano, tanto mi piacciono gli ingegneri tessili che ci sono e che studiano questi tessuti, che anche hanno magari delle compressioni diverse graduate, quanto rimango un po' perplessa davanti a tessuti intrisi di sostanze che vanno in contatto con la pelle, perché lì bisogna guardare e controllare la qualità della sostanza. Certo è che se uno è convinto che qualcosa lo fa dimagrire, è facile che dimagrisca, perché noi abbiamo un cervello molto creativo e che sa creare quello che noi pensiamo. È la nostra parte migliore, diciamo così. Senti, Chiara, ho già perso 2 chili solo a pensarci. Magra. Senti, Chiara, ci sono anche dei tessuti che nascono da prodotti molto naturali. Sì, e andiamo in Sicilia, ecco. Sì, arance. Andiamo in Sicilia con una startup fondata da 2 ragazze siciliane che ho conosciuto l'anno scorso in un evento a Milano. Veramente mi ha colpito molto perché hanno fondato questa startup che si chiama Orange Fiber. Sostanzialmente volevano trovare un modo ecologico per recuperare le ben 70.000 tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno dalla lavorazione dell'arance. Così con il Politecnico di Milano hanno messo a punto questa fibra tessile ricavata proprio dalle arance, nella quale però hanno voluto inserire anche delle microcapsule che rilasciano vitamine ed oli essenziali che appunto avrebbero degli effetti benefici per la pelle. E sono contenta perché il loro progetto sta andando molto molto bene. Poi le arance di Sicilia, guarda, sono lì, appunto. E qua viene fuori il mio 50% siciliano. Grazie a Chiara Beghelli per essere stata con noi. Grazie a voi. Buon lavoro. Buona giornata. Quante curiosità interessanti, hai sentito? 800 24 00 24, potete continuare a chiamare per parlare di tessuti, di moda, di ammorbidenti, di modi in cui possiamo lavare i nostri abiti, anche di fantasmini. Antonio, buongiorno da Napoli. Lei li porta? Buongiorno. Salve, buongiorno. Sì. Sì, chiamo da Napoli. Volevo parlare con la dottoressa per un mio problema anatomi già da diversi anni, che il dermatologo mi ha diagnosticato in effetti un'eritrosi al collo o epicodermia di Cravatte. Cosa in termini tecnici? Va bene, allora siamo qua apposta. In effetti adesso si sta diffondendo questo rossore, in effetti di rossore parliamo al collo, a mo' di collana, che io non riesco, ho provato con il laser ma mi crea più danni che altro, con una luce pulsata, con dei laser, ma i risultati non sono quelli. Grazie Antonio. Dottoressa Serri, il collo, quello di Antonio ha avuto una diagnosi dai lati del collo e salva la zona a rombo sotto il mento, è legata proprio al danno da luce, non diciamo da sole ma proprio da luce, la zona di pelle diventa più arrossata ma anche più scura perché diventa iperpigmentata ed eritrosica, è molto frequente, è difficile da mandare via e probabilmente deve cambiare o laser terapeuta o tipo di laser, perché invece ci sono dei laser che possono funzionare molto bene. In alternativa, oggi anche gli uomini possono usare dei correttori, ci sono dei correttori da maschio che si possono mettere per coprire, oppure una bella sciarpa. Certe volte, in certi casi, piuttosto che dannarsi per un problema, certo, meglio, meglio trovare una soluzione, meglio camuffarlo. Esatto. Allora, per darmi invece l'assist, che mi piace tanto sempre dirlo, al prossimo ospite di cui ci faremo raccontare una cosa molto interessante, prendiamo un'ascoltatrice. Certo, naturalmente. Emanuela. Andiamo ad Emanuela, dalla provincia di Udine. Buongiorno, ci racconti un po'. Buongiorno, io volevo porre una mia riflessione su quanto avete discusso stamattina. Sì. Io amo molto seguire la moda, l'ho sempre ammirata, l'ho sempre seguita, e una mia filosofia è stata questa: una volta l'anno concedermi un bel capo di gusto classico, però con un pizzico di particolarità. Bene, io nel corso dei miei anni mi ritrovo un bel guardaroba ben fornito, brava, che mia figlia ne usufruisce. Quest'anno cosa ha comprato, Emanuela? Quest'anno che regalo si è fatta? Ecco, io devo essere sincera, la crisi ha messo ha ristretto anche un po' il mio guardaroba, per cui nelle catene outlet o in questi negozi di, così, che sono queste catene in città, trovo anche dei bei vestiti che rispecchiano un po'. Poco, quindi, Emanuela, buona, ma molto buono, ecco, e che piace anche ai figli. Ne sai perché poi le figlie prendono. Ti senti coinvolta in questa? Io prendo anche qualcosa da parte loro, certo. Ma d'altra parte non si finisce mai, perché almeno quando le taglie diventano simili, perché poi è veramente difficile invece stare dietro ai bambini, perché crescono così rapidamente. Eccolo. E devi sempre cambiare abbigliamento. Brava, mi hai dato sul piatto, come si dice, me l'hai offerto su un piatto d'argento, non mi ricordo mai i proverbi, per raccontare l'attività, e purtroppo gli devo chiedere di essere molto telegrafico, ma andremo subito alla sostanza di questa avventura, che è quella dell'armadio verde. Quindi ringrazio e saluto Davide Erba con noi, buongiorno. Buongiorno, ecco, a voi. Buongiorno. Del tempo che ci date. Ecco, con sua moglie ha fondato proprio qualche anno fa l'armadio verde. È arrivata Virginia in casa vostra, questa bambina che cresceva come tutti i bambini molto rapidamente, e si accumulavano appunto tanti vestitini dei quali non sapevate che cosa fare. Cosa è successo da lì in avanti, David? Allora, da lì in avanti è successo che abbiamo cercato un modo per, come dire, disfarci di questi vestiti, liberando spazio, però senza, come dire, sprecarli, per cui dandogli comunque una seconda vita. Non abbiamo trovato una soluzione che ci piacesse, perché nella nostra testa c'era che sarebbe stato bellissimo avere un posto dove spedire o portare questi vestiti e averne subito in cambio altri selezionati, comunque in ottimo stato, però della taglia giusta e della stagione per la nostra bimba. Quindi siccome non esisteva, da buon consulente mi sono informato all'estero, abbiamo visto che un po' di questa pratica era stata sviluppata e l'abbiamo italianizzata. Vada subito al sodo, che cosa fate con l'armadio verde? Cosa possono avere a disposizione le mamme che vengono a trovarvi? Allora, le mamme vengono a trovarci, possono iscriversi, portano vestiti o spediscono vestiti a noi che non utilizzano più. Questi, per ogni vestito che ci danno in cambio, diamo subito una moneta di scambio che da noi si chiama stelline. Con questa moneta loro possono collegarsi allo store online, che quotidianamente è aggiornato di tutte le cose che continuano ad entrare, scegliere ciò che desiderano e comprarlo senza utilizzare denaro, facendolo spedire gratuitamente direttamente a casa anche. Benissimo, quindi un e servizio i pupi per... sono calzati e vestiti. Esatto, un servizio per le mamme che hanno un budget contenuto ma che non vogliono rinunciare a vestire bene i loro bambini. So che state formando anche delle personal swapper. Esatto, noi siamo una rete in franchising e abbiamo due modalità di affiliazione, una con l'apertura di un punto fisico, stile negozio, una invece che è molto più gradita dalle mamme, che sempre di più sono concentrate sulla seguire i figli, su mille attività, quindi sono all'ordine del giorno l'imprevisto e non posso andare a lavorare quindi abbiamo creato questa forma di affiliazione, se vogliamo, mobile, dove dotate di iPad con 3 giorni di formazione non fanno altro che promuovere e vendere il servizio alle persone che loro conoscono, mamme come loro, sostanzialmente il servizio poi lo eroghiamo centralmente noi a domicilio. Benissimo, delle loro sul sito dell'Armadio Verde tutte le informazioni, il miglior modo naturalmente per veicolare le informazioni è il passaparola. Grazie Davide, buona giornata. Grazie e buon lavoro. A buonissima presto. Giornata. Grazie. E finalmente è arrivato, abbiamo anche noi un uomo qua in questo gineceo. Non gli vorrei mica chiedere se ha i calzini. No, lui è elegantissimo, è uno degli uomini più eleganti che conosco. Ecco, si è andato già a guardare, che ce li ha, però noi avevamo fatto tutti i commenti stamattina sui gusti. È un signor giornalista e non solo, fa tante cose nella vita, il nostro Salvatore Carruba, buongiorno. Buongiorno a tutti. Avranno già immaginato gli ascoltatori i motivi per cui lo abbiamo interpellato, vuoi riassumerli tu? No, vai pure. Cosa è successo qua? Ecco, vedi? Ecco, perché ha già fatto un piccolo pasticcetto. Perché Salvatore, che come tutti gli ascoltatori affezionati di Radio 24 sanno, conduce un libro tira l'altro ogni domenica alle 22:30, è uno dei membri della giuria dell'iniziativa Cuore Denari Vitali. Eccoci qua. Vogliamo ringraziare anche gli altri membri della giuria, certo. E naturalmente i tantissimi ascoltatori che hanno partecipato. Sono più di 60 i racconti che abbiamo ricevuto e sono sicura che moltiplicheremo a dismisura. Allora, i due ascoltatori che sono stati scelti e a cui andrà la Smartbox in palio sono Eleonora e Francesca. I loro racconti li potrete leggere sul nostro sito. Ma Salvatore, tu da chi sei stato particolarmente stuzzicato e che cosa ti ha colpito dal racconto? Volevamo raccontare un po' ai nostri ascoltatori quali sono i criteri per cui un racconto viene preferito ad un altro. Se possiamo raccontarli, insomma. Sì, segreti non ce ne sono. Certamente in un racconto quello che uno cerca, soprattutto trattandosi di racconti di poche righe, è l'elemento sorpresa, quanto riesca a prenderti una trama narrativa che era poi obbligata, diciamo, da quelli che erano gli elementi, gli incipit dei racconti. Questo per esempio di Eleonora mi ha molto colpito il finale. L'ultima parola nella quale si fa riferimento al dizionario, che è una parola e un oggetto che forse usiamo poco, ma che dovremmo riscoprire, perché anche nel nostro modo di parlare, non soltanto alla radio, ma tra persone normali, è forse riscoprire la preziosità e la ricchezza del linguaggio italiano sarebbe una risorsa per tutti. Non è una questione semplicemente di essere dotti o di buona educazione, ma è, diciamo, il riferimento e la consapevolezza di quanto la lingua italiana sia una lingua ricchissima di sfumature, di elementi che ci permettono di dare una ricchezza a sua volta al nostro discorso, a patto che naturalmente abbiamo un discorso da fare, questo è il discorso. Questo racconto, in qualche misura, ponendo come involontario protagonista alla fine il dizionario, secondo me ci offre qualche elemento, oltre che di sorpresa, di riflessione su questo nostro rapporto con la parola. Due parole anche sul racconto di Francesca, che ci è piaciuto in modo particolare, che quindi per questa settimana abbiamo deciso di fare diventare il racconto di Cuore Denari Vitali. Certo. Allora, qualche suggerimento per gli ascoltatori quindi che accetteranno la nuova sfida? Bisogna avere un'idea, essere creativi, usare... capaci di sorprendere e capaci anche di usare un eloquio, un vocabolario ricco. Allora, c'è tanto ancora da lavorare, due incipit, possiamo farli sentire? Esattamente, partiamo allora da quello di Cuore. Nel mondo parallelo delle università per anziani, una signora segue con molta attenzione un ciclo di lezioni sulla storia dell'arte. È affascinata dalla bellezza che la creatività dell'uomo è riuscita a produrre e di fronte a certi capolavori a volte si commuove. L'insegnante inoltre è giovane e carino, che non guasta, e in più ha un che di artistico nel portamento. Il giorno in cui quest'ultimo propone una carrellata delle più belle statue prodotte dall'ingegno umano, la signora in questione scopre una meraviglia dopo l'altra e non riesce a trattenere piccole grida di stupore. Ma è davanti a una fotografia della Venere di Milo che non riesce a trattenersi e alla sua vicina di poltrona confessa che anche lei, da giovane, aveva una sifilide tale e quale a quella della statua. La sua vicina, allora... Allora voi iniziate subito a farvi venire qualche idea, scrivete 2500 battute per completare l'incipit di Andrea Vitale, ma la parola chiave che dovete mettere in questo racconto è... pelle. Per il racconto di Cuore e pelle. Adesso sentiamo l'incipit per il racconto di Denari. Nel mondo parallelo del denaro, una donna in evidente stato di gravidanza sta chiacchierando con un controllore della maleducazione di certa gioventù che mette i piedi sui sedili grida senza alcun rispetto degli altri viaggiatori, pretende addirittura di viaggiare a gratis, come se pagare il biglietto di treno, tram o metro non fosse un preciso dovere di ogni buon cittadino, ma un atto lasciato al libero arbitrio di ciascuno. Scherzando, il controllore dice che in fondo anche lei sta contravvenendo alle regole appena difese. Io? Fa la donna. Il controllore, quasi euforico per la trovata, le spiega che, data la sua condizione, stanno viaggiando in due con un biglietto solo. Errore, dice la donna, perché... E in questo caso la parola chiave che deve essere inserita nel completamento è vestito. Naturalmente non potevamo scegliere un termine diverso data la puntata di oggi, ma... Dobbiamo salutare. 20 secondi di tempo per salutare Salvatore Carruba. Grazie alla nostra dottoressa Riccarda Serri per essere stata con noi. Gianmarco Ferronati in regia alla parte tecnica. Marco Lombardo e Laura Vanossi in assistenza nostra quotidiana. E anche Camilla, naturalmente. Certamente. A domani.